Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori della 24 in questo sabato alle ore 9 primi esattamente in questo momento, sabato 8 aprile, l'allegra compagnia si fa per dire, questi gli argomenti che di solito tocchiamo, dei conti della Belva, che vi saluta, vi ringrazia e vi annuncia subito di che cosa parliamo in questa trasmissione. Con me in studio gli altri compari, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Più tardi ci raggiunge Renato Cifarelli e vi dico subito che gli argomenti della puntata sono: in un primo blocco, dopo il consueto punto sui temi della settimana, temi caldi come si vede, visto che purtroppo ci si mette di nuovo la guerra e il terrorismo, ma al di là di questo noi avremo un primo blocco in cui affrontiamo insieme i temi delle due grandi municipalizzate del trasporto, che hanno temi diversi, problemi diversi a Milano e a Roma, ma sono alle prese con scelte importanti. Da una parte Milano, dove c'è una decisione presa dal sindaco senza tanto dibattito in città che riguarda ATM e Ferrovie dello Stato, e a Roma invece illustrato il piano da parte dell'assessore Colomban su una non discontinuità, come devo dire, che ci suscita qualche perplessità sulle partecipate romane, di cui la prima in testa, la più scassata municipalizzata di trasporto pubblico, è appunto l'ATAC. Quindi milanesi e romani, milanesi, siete favorevoli a Ferrovie dello Stato che mette a mano dello Stato una vicenda dell'ATM che invece è la migliore italiana, come l'ATAC è la peggiore, è la migliore e partecipava e vinceva da sola a gare internazionali e ora finisce un po' sotto Ferrovie. Romani, siete convinti del fatto che basta quello che dice la Giunta Raggi sull'ATAC? Chiamateci. Poi abbiamo un secondo blocco che invece riguarda il fisco, da una parte quello che ci ha detto come sempre Equitalia sugli 817 miliardi che gli italiani devono allo Stato e che loro non sono in condizione di incassare. Approfondiremo questa cifra perché c'è molto da dire su quella cifra e ci interrogheremo su, però, dall'altra parte, la fila per andare a rottamare le cartelle. Può essere che dia ragione anche un po' a Equitalia quella fila, no? Però proprio da questo, quindi chiamateci anche su quello, se state rottamando la vostra cartella, la trovate conveniente, eccetera eccetera, chiamateci. Però noi partiamo esattamente da questo aspetto, perché oltre ai numeri grandi di Equitalia che vi reinterpreteremo e oltre alla rottamazione delle cartelle, nel frattempo va a conclusione una vicenda su cui vi abbiamo tenuto dai microfoni Radio 24 spessissimo informati, perché era una vicenda epica. Da quando hai la testa di Riscossione Sicilia c'è l'avvocato Antonio Fiumefreddo che aveva tentato di far pagare le tasse ai politici siciliani, perché avevamo scoperto che Riscossione Sicilia precedentemente non mandava in esecutività le cartelle ai politici eletti. Uno, due, gli enti pubblici della Regione Sicilia ai quali si applicava la stessa cosa, cioè in Sicilia erano liberi di sapere che le cartelle loro non le pagavano le amministrazioni pubbliche. Da quando è successo quel braccio di ferro, mettere in fila gli troppi avvocati presi per parentela politica invece che l'ufficio legale interno per affrontare e vincere le cause, il braccio di ferro che ha avuto diversi passaggi con la politica che diceva guarda che ti tagliamo, guarda che ti tagliamo, guarda che ti tagliamo, guarda che ti tagliamo, è arrivato alla fine. E infatti in una bella delibera notturna Riscossione Sicilia guidata da Antonio Fiumefreddo da giugno avrà una discontinuità lei. Allora abbiamo a telefono per pochi minuti, perché poi deve prendere l'aereo, l'Antonio Fiumefreddo. Io ieri ho detto al Presidente della Repubblica gli dovrebbe dare una medaglia al valor civile. Ho il coraggio, il fegato, l'improntitudine di dirlo, gli farò anche un danno, ma intanto lo ringrazio di tutto quello che ha fatto e sono felice che sia ai microfoni con noi. Come sta? Sto benissimo, ma più che tagliare la mia testa, che è poca cosa, la cosa veramente che sa di delitto è che pur di non pagare le tasse hanno tagliato l'agenzia, perché con questo emendamento che fa cessare le attività di Riscossione Sicilia al primo luglio, è evidente, senza che ci sia ancora una soluzione nazionale, che pure è auspicabile, è chiaro che c'è un momento di disorientamento con i siciliani che intanto corrono per rottamare. quindi noi abbiamo già un miliardo di rottamazione, circa 50 milioni di euro di viaggio, non sapremo che fine farà, non sappiamo cosa dire alla gente, però loro hanno consumato la loro vendetta, ecco. Cioè, ma il motivo, ma questo io non ne ho dubbio, ma ormai, perché conoscendolo a distanza, invitandolo più volte, abbiamo tentato di capire, ma quest'uomo non ce la racconta giusta, invece poi bisogna dare atto che è così. Ma qual è il motivo formale che viene adotto per questo voto? Il motivo formale è omogeneizzare in un qualche modo il sistema siciliano con quello italiano, il che voglio dire, io non entro nella scelta politica, è giusto, non è scorretto, è chiaro che non ha senso avere un'agenzia separata. Il punto è che questo avviene facendo cessare le attività, ecco, dal primo luglio, quindi velocemente, ed avviene esattamente dopo che la Commissione Bilancio mi ha buttato fuori dalla seduta e mi aveva minacciato che se avessi continuato ad insistere, a dare questa immagine alla Sicilia in cui non si pagano le tasse, come se questa immagine la dessi io e non la realtà, i numeri. Avrei pagato. E quindi diciamo l'occasione, il pretesto è come dire, uniformarsi alla Repubblica, che è giusto. La verità è che si è fatto fuori una stagione, no? Ne pensi che mentre loro liquidavano Riscossione Sicilia, noi avevamo i nostri ufficiali settoriali nei mercati ortofrutticoli, dove c'è un'alta concentrazione di evasione, ed era la prima volta che accadeva da quando esiste l'esattoria in Sicilia. Quindi un segnale molto brutto dato ai siciliani, come dire, stati attenti, chiunque si permette di alzare la testa e di trattarci come cittadini comuni viene fatto fuori. Io non avevo dubbi sulla conclusione, devo dire. No, questo l'ho capito, che più volte nei mesi la progressione del suo tono via via più ironico e disincantato lasciava intendere che lo dava per certo. Certo, però quello che sfugge a questi signori è ecco, che qual è la sensazione, qual è la considerazione che i cittadini hanno di loro. Ed è una considerazione che non devo illustrare io, perché è pessima, perché è gente impresentabile, perché è gente che consuma soltanto vendette, ma quello che è più grave è che questa volta l'hanno fatto diciamo proprio con un senso dell'impunità che credo non appartenga più a questo periodo storico, cioè credo che abbiano esagerato questa volta, e il danno è un danno enorme, ripeto, perché disorienta i cittadini che stanno andando a rottamare, e io credo che poi alla fine questi signori saranno chiamati a rispondere. Insomma, io non mollo come cittadino, insomma. Ecco, la poltrona mi interessa poco. E da cittadino a cittadino le dirò che c'è un microfono, noi la chiamiamo. Io ricordo a chi è in ascolto che quando all'inizio del 2016 pose il tema i numeri erano inequivocabilmente a favore della battaglia di questo nuovo corso di Riscossione Sicilia, che doveva incassare in teoria 5 miliardi l'anno e invece incassa meno di 500 milioni, per capirci, e che aveva 700 dipendenti, 887 consulenti, capite? Cioè stavamo parlando di un ente di riscossione in cui in cima a coloro che non pagavano c'erano i comuni, con pacchi di milioni di ogni comune, cartelle che tanto avevano la certezza non venivano messe in esecutività. E c'erano tutti i politici, c'erano 20 senatori nazionali siciliani, 39 deputati nazionali siciliani, 155 deputati regionali delle precedenti legislature e 77 su 90 dei deputati regionali che erano in carica, tutti con le cartelle, chi più chi meno, alcuni casi tantissimo, altri poco, ma il problema era che avevano tutti la presunzione di non pagare, perché appartenenti alla casta elevata di coloro che, siccome scelgono loro gli amministratori di Riscossione Sicilia, in cambio e si ottengono il chiaro piacere di non far pagare loro. Allora, questa roba qua almeno è diventata pubblica. Adesso, se loro scelgono, come hanno scelto trasversalmente, con ampio consenso, di liquidare questa stagione, ne porteranno la responsabilità. Io credo poco che pagheranno, non la penso come Fiumefreddo è più ottimista di me, ma intanto, buon viaggio aereo, noi la ringraziamo, tifiamo per lei. Ha dato, secondo il nostro modestissimo avviso, un esempio di come la macchina pubblica, se vuole, può. E a quel punto si capisce anche chi ha non voluto e assolutamente non desidera che la macchina pubblica possa operare con efficienza e trasparenza. Un abbraccio da parte nostra! Allora, cari, posso chiedervi, Mario e caro Alberto, cosa vi... due battute su questa vicenda. Ma io mi chiedo, cioè molto banalmente, tutto questo mancato gettito da recupero, sì, diciamo, crea dei buchi, no? Nel infatti, bilancio della regione Sicilia, infatti, come che sai, si accumulano, anche perché la regione Sicilia mi pare che abbia dei primati di crediti inesigibili con i quali loro fanno il bilancio, poi periodicamente urlano al fuoco e da Roma li devono aiutare. Queste sono i grandi meriti della favolosa autonomia speciale. Bravo. Ribadiamo il concetto. D'accordo. Fin tanto che questo paese non mette mano all'autonomia e non dà una vera autonomia fiscale, il che vuol dire responsabilizzare, esatto, ogni ente locale. Se tu non incassi, devi arrangiarti per quanto riguarda la quadratura del cerchio del bilancio. Finché non si mette mano a questo, non c'è speranza. Mi aggiungo per dire che mi aspetto per le regioni e per gli enti locali lo stesso trattamento che la BCE ha riservato alle banche quando si è trattato di valutare i crediti inesigibili, appunto, no? Cioè ha sostanzialmente obbligato a uno standard comune europeo della misura dell'esigibilità. Almeno riusciamo a compararli. Questo secondo me è l'elemento importante, dovremmo fare quasi uno stress test e uno SREP. Vabbè, ma tanto dire, poi sarà colpa della Germania e dell'aeroporto. Questo lo vediamo no, dopo. E dell'aeroporto, capisci, di Berlino, che è il nuovo, meme. Oltre alle gride manzoniane, forse possiamo fare anche un lavoro importante. Prendere ad esempio il lavoro che è stato fatto per le banche, mettere sotto stress gli esigibili, quindi in modo tale da far uscire gli eroi siciliani e farli diventare, come dire, degli onesti funzionari europei. Torniamo tra un minuto. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Fratelli d'Italia. L'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Allora, eccoci qua, Mario, da cosa cominciamo? Occupati? Sì, questa settimana è uscito il rapporto Istat, al solito, sul mercato del lavoro italiano a febbraio. La cosa più interessante è stata la reazione, certo, diciamo, del giornalista collettivo, oltre che dei politici. È scesa la disoccupazione, evviva, evviva! Abbiamo un problema di algebra qua, no, altro ma... che di statistica. Sì, l'algebra. Sì, ma è un trionfo, anche perché in questo mese specificamente, andando contro una tendenza che dura da tempo, sono aumentati gli inattivi. Quindi la riduzione del tasso di disoccupazione dall'11,8% all'11,5% semplicemente non fa testo. Dopodiché abbiamo visto gente fare la ola perché i ragazzi della fascia tra 15 e 24 anni hanno visto il tasso di disoccupazione di calare in un mese di ben l'1,7%. Poi si va a vedere e si scopre che in un mese nuovi occupati 0, nuovi disoccupati meno 41.000, ma inattivi più 38.000, per cui abbiamo fatto pari e patta, però c'era ancora gente che per strada faceva la ola sul calo della disoccupazione giovanile, il Jobs Act funziona, non si attacca al lavoro del vostro dentista, arriva presto, va via presto e non pulisce il water. Tra l'altro si segnala, come al solito, Gennaro Migliore con i suoi favolosi tweet che sono, diciamo, un nome e un programma, diciamo. È il Jobs Act che funziona. Però la cosa veramente più interessante è che Istat nel suo rapporto tecnico ci aiuta, esatto, e prende posizione, sia pure nella maniera felpata, tecnica e tecnocratica, però la prende, istituzionalmente propria, scrivendo una cosa di questo tipo: si conferma il ruolo predominante degli ultra cinquantenni nello spiegare la crescita occupazionale anche per effetto dell'aumento dell'età pensionabile. Dirvelo più chiaro di così, cosa devono fare? Onore a Elsa, posso dire, finalmente, sì, onore sì, a Elsa Fornero. Ma infatti, ma guarda, non solo, ma nell'altra nota, diciamo, demografica, che è fondamentale, Istat scrive, tra le altre cose, che si nota la fuoriuscita, certo, dalla classe di età delle folte generazioni dei 49enni non compensata dall'ingresso dei quindicenni. C'è il gradino delle soglie. Questo quindi è fantastico. Perché? Perché la famosa clessidra demografica di questo paese sta spingendosi sempre più verso i decenni più tardi, sta no? Sta diventando più anziani. Un cono gelato, se posso sì, dire. Sì, è una piramide rovesciata, sta diventando, dove ci sono molte, la fascia, la coorte degli anziani è molto più ampia, è diventata la base rovesciata e il vertice dei quindicenni è sempre più esile. Allora, in questa frase, che cosa si coglie? Una cosa molto sfiziosa. Cosa succede a un 49enne al passare del tempo? Che se il 49enne, diciamo, ha la fortuna di restare in vita, quindi non viene assunto dal Padre Eterno a più alti incarichi, entra nella corte dei cinquantenni. Magicamente. E la corte dei cinquantenni vogliamo dirlo, si gonfia, si gonfia. Unite la corte dei cinquantenni che si gonfia e la legge Fornero e scoprirete questo trionfo del Jobs Act che ha prodotto 700.000 nuovi occupati. Non sono assunzioni. Vi prego, tornate in voi, riprendetevi. So che è difficile, ma fate uno sforzo. È la demografia che fa il suo corso, esatto, le classi statistiche, esatto, che, come dire, cambiano le metriche. Però posso dire una cosa, che negli ultimi mesi ho notato che sia INPS che Istat stanno piano piano acquisendo un linguaggio e un livello di apertura che francamente non si vedevano da anni. INPS, grazie anche al lavoro di Tito Boeri, che secondo me sta cercando di mettere sul tavolo una serie di dati su cui far lavorare. Istat sta cambiando il linguaggio, non sei d'accordo Mario? Che qualcosa sta succedendo? Stanno cercando, secondo me, di spingere il dibattito pubblico, non so se è una velleità, verso un quantum, un minimo, un barlume di scientificità, perché nell'ultimo, in fondo a questo rapporto viene spiegato, come ogni mese del resto, il calcolo dell'intervallo di confidenza. Esatto. Ora, è una cosa importante. Che rischiamo di far suicidare gli ascoltatori. Però dilla precisa, però, perché diciamo, questo importa. Allora, la gente non ha la minima idea, allora, che sia così. Sì, innanzitutto la disoccupazione e il numero di occupati sono stime campionarie. Certo. Cioè è una statistica e non un numero, tra virgolette, esatto. Cosa fa? Quindi sono proiezioni, ovviamente, esatto, perché il dato medio è un dato che poi ha un intervallo, no? Esatto. ha una possibile variazione di incertezza che noi chiamiamo statisticamente intervallo di confidenza. Esatto. Vuoi dire quanto è stato? Ma nel mese di febbraio, prendendo il dato non destagionalizzato, Istat ha trovato una stima puntuale del tasso di disoccupazione dell'11,8%. Applicando, cioè il valore centrale, esatto, cioè il valore centrale. Applicando le tecniche statistiche dell'intervallo di confidenza, cioè il famoso 1,96, eccetera, cosa otteniamo? Che il valore vero, ma non conoscibile, di questa statistica, possiamo essere fiduciosi al 95% che sarà compreso tra l'11,4 e il 12,2% di disoccupazione. Non solo, il dato degli occupati rispetto alla stima puntuale, con questo intervallo di confidenza di 1,96, cioè al 95%, ci dà un delta di 280.000 occupati, 140.000 in meno, 140.000 in più. Questo è molto importante, perché Istat fa il suo lavoro. Queste cose non le capirà nessuno. Noi continueremo ad avere rappresentanti del popolo a dire stronzate, soprattutto amplificate dai social, perché così funziona e non solo in Italia. No, certo. E vivremo tutti felici, diciamo, e contenti. Diciamo che l'intervallo di confidenza delle stupidaggini politiche è molto ampio, possiamo dire. Esatto, esatto. Ma soprattutto, se non credete a me, cioè il discorso che non ci sono delle assunzioni di over 50 che siano significative, non c'è un fenomeno di assunzione di massa di over 50. Se non credete a me, prendete i dati mensili INPS dell'Osservatorio sul precariato, scoprirete, ad esempio a gennaio, ultimo mese riportato da INPS, che le attivazioni a tempo indeterminato degli over 50 sono state il 15% del totale delle attivazioni a tempo indeterminato. Però, guardate, io predico nel deserto, tra l'altro non me ne può fregare di meno, non voglio convincere nessuno, non ho delle pentole da vendervi, perché io vivo lo stesso, mi faccio la mia vita, non me ne frega un accidente, che ci crediate o meno, però noi siamo immersi in questo paese in un persistente stato di allucinazione e non finirà bene, anche se sono anni che ve lo dico. Penso anch'io, però come vedi la velocità della caduta è lenta e la gente non la percepisce, perché siccome siamo molto patrimonializzati rispetto ad altri, questa, abbiamo un bel cuscinotto, grazie alle generazioni precedenti, di ciccia intorno ai fianchi, siccome scende, si vede che scende dalla stima, però insomma consente un'illusione. Io faccio solo due brevi flash, perché questa settimana secondo me da notare, cari ascoltatori, azionisti delle Venete soprattutto, ma non solo voi, lo scambio molto vigoroso che c'è stato tra la BCE, che a un certo giorno all'inizio della settimana ha fatto scrivere alla Bloomberg: per noi le due Venete sono solventi, andate. Ed era in realtà un messaggio alla, un po' ruvido, molto ruvido rispetto al linguaggio europeo, verso la direzione generale per la concorrenza della Commissione Europea, come dire: noi cara Italia fate, vedetevela con loro. La Verstager due giorni dopo, altrettanto ruvidamente, e questa volta lo ha fatto lei dichiarando personalmente, perché la BCE invece si usa un po' le note indirette, un po' non molto corretta secondo me, la comunicazione della vigilanza europea secondo me è un vero problema di opacità, quella che alla noi, cioè io non condivido già all'inizio la scelta che le decisioni vengano affidate ai soggetti vigilati su cui interviene, e lei non si piglia la responsabilità di dire mai quello che dice, è un modo che non mi piace. Detto questo, la Verstager ha risposto dicendo: no, veramente è il governo europeo, è il governo italiano che sta perdendo tempo. Questa faccenda delle due Venete resta aperta. Tra l'altro Viola ieri pomeriggio a questi microfoni, ospite Sebastiano Barisoni, ha detto: sì, guardate, 6,4 miliardi è la cifra entro la quale c'è un massimo in cui lo Stato a alcune condizioni deve andare. Non è detto che sia la cifra che basta. Può essere meno? No, può essere di più il dato reale? Ecco, quello che alcuni quotidiani riprendono è: attenzione, perché, allora, questo per dirne una... E questa faccenda anche perché, Oscar, c'è da fare tutto un piano industriale di convergenza e ristrutturazione, esatto. C'è da capire il modello distributivo, cioè è difficile fare i conti. Le prime reazioni del mondo bancario sono: se parlate di licenziamenti, sciopero nazionale, appunto, parliamo, non è facile, cioè non è che basta ripulire il bilancio dal punto di vista patrimoniale. Insisto, guardate che il vero problema è trovare un punto di sostenibilità economica e un modello di raccolta che non debba dipendere dalla droga dei fondi garantiti dallo Stato. Non esiste, non possiamo tenere banche fondamentalmente in coma. Io voglio pilotato, segnalare agli nostri ascoltatori che, a differenza di quello che vi dicono i grandi giornali, in cui questa settimana avete assistito a prove muscolari tra Renzi e il governo, questa storia dell'elezione dell'Alfaniano, su cui secondo me non vi hanno detto la verità, era un'accelerazione che i renziani davano alla fine del governo, è rientrata perché Mattarella, grazie al cielo, nella totale Giro d'Italia ha fatti completamente rimbalzare, gli ha detto: non vi raccolgo neanche al Quirinale per farmi dire che il governo Gentiloni deve andare a casa. Tutto questo però ha un incidenza su un problema vero che è irrisolto, cioè le tensioni con la Commissione Europea sul bilancio italiano sono ben lungi dall'essere risolte e riguardano non solo e non tanto la manovrina, in cui, come avrete capito, sì, se la prenderanno con l'alcol e i giochi, ma riguardano l'impostazione del DEF. Perché dopo che hanno scoperto che abbiamo ciurlato nel manico sulla clausola di flessibilità per gli investimenti, perché gli investimenti ce l'hanno data la clausola, gli investimenti sono diminuiti anche nel 2016, il 4,4%, a me risulta che alla Commissione ha detto: caro Gentiloni, ci dispiace, sono cose che hai ereditato da chi c'era prima, però questa volta, e lo abbiamo detto anche a Padoan, per questo Padoan è sotto schiaffo dai renziani, dovete darci un DEF che tenga conto del fatto che ci avete un po' preso per i fondelli sugli investimenti e sul debito. Sulle privatizzazioni, anche fammelo dire. Tutta dai, la questione delle privatizzazioni è nella questione del debito. Tant'è che lo dico, onore al Messaggero, perché oggi è il quotidiano che dà più spazio alla manovra che il Tesoro si starebbe inventando per tagliare il debito, proprio perché c'è questa richiesta sul tavolo che i giornali italiani mi nascondono, da parte della Commissione Europea, per diminuire il debito, visto che noi ci siamo presi le clausole. Non è una richiesta, cioè è un impegno che siamo presi, voglio dire, è un patto che abbiamo fatto con i cittadini. Però fammi dire, non è così. Basta con sto liberismo. Ma che liberismo? Questo è stato di diritto, cioè non è la controparte dell'Unione Europea. Allora, dai, Oscar, anche fammi tu dare questa notizia, ma figurati anche tu. Se legittimi questo linguaggio, la richiesta della Commissione Europea, ci stanno ricordando gli impegni che abbiamo preso. È disturbatore l'assemblea. L'assemblea di condominio. No, l'essenziale però è che sappiate che le ipotesi su cui sta lavorando il Tesoro sono due. Una, a mio giudizio, peggiore dell'altra. Mm. Perché, per essere chiari, nella prima CDP diventa titolare di tutte le... Refugio un peccatore. E poi emette azioni privilegiate. Cioè, una cosa, francamente... Che però, emettendo azioni privilegiate, si crea un problema che poi le privilegiate danno i rendimenti... Esatto. Sì, sì, privilegiati. Sì. Ai privilegiati. Esattamente. Di estrazione di rendite monopolistiche garantite dallo Stato. Che adoro quelle cose lì, Oscar. Cioè, finirebbero per essere date ai fondi sovrani, eccetera, eccetera. E naturalmente, a meno che a CDP e a quanto si paga invece, a quanto pagano al risparmio postale da cui fanno provvista. Quindi c'è un problemino non da poco. Vedi tu, sul risparmio postale scoppia una bolla adesso. Esattamente. La seconda ipotesi non ha meno ostacoli. Anche la seconda ipotesi, come la prima, non fa alcuna cessione. Stiamo semplicemente parlando di come vestire diversamente il controllo proprietario dei grandi gruppi, perché questa seconda ipotesi è quella di conferire di nuovo la società pubblica in un veicolo controllato sempre dal Tesoro, ma non direttamente in pancia alla CDP, perché c'è anche un problema di statuto con le fondazioni nel frattempo e così via. E in quel caso la CDP però beccherebbe un rendimento sul risparmio postale sempre superiore a quello garantito dal Tesoro oggi tramite il conto di tesoreria, quindi ci guadagnerebbe la CDP. Allora, come vedete, le due diverse ipotesi, non ho tempo per entrare nei dettagli, non hanno niente a che vedere con cessione di alcunché. Sono architetture finanziarie, ad alla politica piacciono perché comunque si inventano un tetto entro la quale concentrare come in una fortezza tutto ciò che è pubblico, facendo smettere quelli come noi di dire bisogna cedere qualche cosa. Quindi il rischio che qualcuna di queste sue strade si imbocchi c'è ed è forte. Però sai cosa mi ricorda questo? Gli anni d'oro ruggenti della Fondazione Montepaschi, che non intendeva cedere il controllo della banca conferitaria, fottendosene, per usare il verbo tecnico, della legge Amato-Ciampi, con Guzzetti che dopo 20 anni scoprì che loro violavano la legge, cosa fecero? Inventarono le azioni privilegiate anche loro. In quella maniera poi le azioni privilegiate erano in capo alla fondazione, la banca scendeva sotto il 50% di poco, tanto loro nell'assemblea straordinaria erano comunque i padroni. Io vedo un parallelismo. Sì. Questo utilizzo di scatole cinesi è caratteristico, ragazzi, di una economia di capitalismo da debito, di capitalismo straccione. No. Fermo restando che, a mio giudizio, comunque, con lo stock di debito che abbiamo, se anche noi privatizzassimo tutto, risolveremmo assai poco. Non c'è dubbio. Cioè, a monte c'è anche questo discorso. No, certo, non illudiamo nessuno. Però questo tema dell'intervento sui property rights, cioè sui diritti di proprietà, che invece è fondamentale nel contratto con lo Stato, capite? E qui stanno ciurlando dal manico, perché intervenire sui diritti di proprietà è troppo comodo per loro, capite? Lasciando al cittadino la patata bollente del debito e tenendosi comunque i diritti politici. Questa scissione per me è una scissione criminale, ve lo dico sinceramente. Ma è una scissione da primo Stato contro il terzo Stato, perché nel senso che si fonda sulla simmetria normativa dei diritti, certo, e loro ve la vendono come invece il patriottismo a difesa dell'Italia, sì, dagli artigli adunchi degli altri. Vi stanno fottendo in termini di, ripeto, di diritto. Un'appropriazione indebita della politica di diritti di proprietà. Ma perché questo? Perché il PD si è risvegliato progressista, no alle privatizzazioni. Bravo. Stasettimana il capogruppo alla Camera, Ettore Rosato, intervistato dalla Stampa, ha detto: cosa chiederete al MEF? Chiederemo di alzare le stime del PIL, perché così potranno starci più investimenti. Ragazzi, qui siamo nel parcheggio dell'autogrill. No, ma questo è il punto di alzare la stima del PIL. E lo stesso criterio che dice: ma qual è il suo obiettivo per la crescita di un paese? Far lievitare il tavolino alla seduta spiritica. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati cari ascoltatori, dopo questo resumé di settimana abbastanza scoppiettante di finanza pubblica. Ripeto, poi sì, c'è il grande manto della politica internazionale, dei missili sulla Siria, del cambio di politica estera di sicurezza da parte di Trump da una parte, la tragedia di Stoccolma dall'altra, e ovviamente la nostra attenzione va lì, però non bisogna staccare lo sguardo da quello che capita nel nostro paese. E tra le cose che capitano nel nostro paese questa settimana, alcuni sviluppi che riguardano due delle grandi municipalizzate, anzi le due maggiori municipalizzate di trasporto del nostro paese, che a Milano e a Roma toccano i vertici da una parte dell'efficienza e dall'altra dell'inefficienza, nel senso che noi abbiamo a Milano la municipalizzata di trasporto pubblico con i conti più in regola da sempre, più efficiente che c'è in Italia, la TIE, dall'altra lata che l'opposto da anni, che sta con la maglia nera nella statistica, nel ranking del rapporto delle municipalizzate italiane annuale di Mediobanca da anni e anni e anni, e che è la migliore dimostrazione che la riforma Madia è una presa per il culo, perché come ovvio lei è esattamente, c'entra tutti i criteri di perdita pluriennale per il quale dovrebbe scattare la procedura commissariale, come sapete invece non se ne parla minimamente. Quindi ne approfittiamo anche per dire che la riforma Madia delle partecipate è una colossale delusione. Altro potremmo dire sulla Madia, ma per il momento fermiamoci a questo. Però quali sono gli sviluppi? E abbiamo con noi un esperto per parlarne, Francesco Ramella, ricercatore dell'IBL, che da anni si occupa dell'analisi appunto del trasporto pubblico locale e del trasporto in generale. Grazie di essere con noi, Francesco. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, sintesi estrema in 20 secondi. A Milano, punto interrogativo, perché il sindaco decide di dare via libera in buona sostanza a ciò che noi iniziamo a scrivere qui con Mazzoncini mesi fa, l'amministratore delegato di Ferrovie. Il segnale è: Ferrovie deve entrare dovunque, dovunque possa e in qualunque modo, senza gare, ad aggiudicarsi pezzi importanti del trasporto pubblico locale, perché questo gli fa massa critica e deve diventare il braccio di ferro degli investimenti nazionali. A questo ci si arriva con una vicenda che manda a casa l'amministratore delegato della TIM, che dice no, la partenza, il cavallo di Troia è l'assunzione di una quota in una metropolitana milanese da dismettere da parte di Astaldi. Ci sarebbe da discutere a lungo. Non una qualsiasi, la M5, che è una metropolitana automatica, con tecnologie di governo e controllo avanzatissime, che è il paradigma del futuro. E quella Astaldi esce perché ha commesso un enorme errore, e noi la abilitiamo a uscirne un po' gratis, se posso dire. Però detto tutto questo, quello è il cavallo di Troia, perché si sa che la questione riguarda poi la questione di Trenord, cioè di far passare a favore di Ferrovie la quota che aveva e ha in Trenord, e riguarda la stessa ATM. Rota se ne va, sbatte la porta, Sala lo sostituisce, tra l'altro se ne andrà a Roma. Grande dibattito, sciopero tra l'altro dei sindacati qui della metropolitana, e in due ore lo sciopero si conclude, oltretutto, carità assisti in ascolto, col piffero che voi avete mai risultato di questo tipo. Quando CGL e CISL e UIL chiudono le saracinesche, il sindaco poi in due ore dice che hanno ragione, quindi le future gare per il trasporto pubblico mica si spacchettano, si fanno tutte unite, e così avremo che a vincerle sarà comunque ATM, ma un ATM con Ferrovie. Questa è la sintesi un po' forzata giornalisticamente. Dall'altra parte, questa settimana l'assessore Colomban, l'assessore di Roma, l'assessore Colomban, Veneto, trapiantato a Roma, delle 21 partecipate pubbliche romane, dice: ma sì, in due anni vedremo di farle scendere, ma insomma 12 restano, in questa resta l'ATAC, e il problema però resta: ma come si fa? Tant'è che Colomban dice a un certo punto, siccome la somma del costo aggiuntivo per il Campidoglio annuale è 1,3 miliardi e i debiti accumulato dalle partecipate 1,7, io chiedo che questi 3 miliardi se li accolli il governo. Questo è il motivo con cui Colomban svela che egli stesso non si fida molto del cambio di marcia a Roma. Allora, questi sono i dati. Ci fai capire, Ramella, perché questa dissimmetria, e soprattutto cosa pensi, iniziamo da Milano, cosa pensi di quello che è avvenuto a Milano, ma perché il sindaco si muove in questo modo? Probabilmente perché ha qualche interesse più ad avere controllo di voti che non avere il miglior servizio al minor prezzo possibile. Ma guarda, io ho visto qui davanti il volantino che hanno distribuito in occasione dello sciopero, che trovo davvero abbastanza ridicolo. Si teme che i trasporti siano frantumati e addirittura c'è il rischio di venderli, con il rischio che la mobilità dei lavoratori non sia più garantita. ovvero l'idea che non, se non, domani non ci fosse più un'unica azienda, il servizio deve per forza peggiorare. Se uno va a Londra non si accorge nemmeno che ci sono 7 diverse aziende che forniscono servizio. Gli output sono validi per tutti, la pianificazione è rimasta, ma da ormai 30 anni il servizio viene affidato su piccoli lotti, praticamente ogni settimana c'è una gara che riguarda 3 o 4 linee e viene affidata con un normalissimo appalto all'azienda che richiede il sussidio più basso. La qualità del servizio è ottima, certo non è peggiore di quella di Milano. Quello che si è ottenuto un buon risultato è che i costi di produzione sono stati radicalmente ridotti. Dicevi prima che ATM è un modello di efficienza. Forse comparato su scala nazionale, non in sé. Perfetto, su scala nazionale ATM è una buona azienda, però ricordiamo che a Milano produrre un autobus costa 5 euro a chilometro. Le aziende più efficienti britanniche, quelle privatizzate, hanno dei costi che sono di poco superiore alla metà. Altro numero che spesso viene ripetuto: Milano copre una elevata quota di costi con i ricavi da traffico. Anche questo è vero, siamo circa a metà, mentre in media nazionale siamo sotto un terzo, ma questo non dipende da una maggiore efficienza, se non in minima parte delle aziende, dipende dal fatto che più della metà dei passeggeri sono della metropolitana e la metropolitana ha una copertura di costi molto superiore ai servizi superfici. Se noi guardiamo a parità di condizioni, Milano copre un terzo dei costi. E la situazione peggiorerà nei prossimi 3-4 anni, perché hai circa 300 milioni che ogni anno ATM riceve come contributo, se ne vanno a sommare altri 200 milioni per i canoni di disponibilità di M4 e M5. Quindi nell'arco di 4-5 anni, quando le due linee saranno in servizio, Milano riceverà sui 500 milioni all'anno di sussidio. Ma allora, su questo quadro, ha ragione chi dice che tutto sommato è meglio che arrivi Ferrovie dello Stato a Milano? Aspetta, però la risposta me la dai tra un minuto. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati, con noi Francesco Ramella del Sito Bruno Leoni. Stiamo analizzando quello che in questa settimana è avvenuto da una parte all'ATM di Milano, dall'altra all'ATAC di Roma. Io dicevi, in termini comparativi europei, l'ATM di Milano sì, sarà una buona azienda a livello nazionale, però insomma si può fare molto di meglio. Ma a questo punto allora ha ragione Sala, che insomma senza tanto dibattito ha dato il via libera a quello che Ferrovie dello Stato non nasconda di voler fare, cioè di crescere molto nella sua presenza, nel suo peso, suo ATM nel trasporto pubblico regionale lombardo. Allora hanno ragione? No, direi di no, perché rischiamo di passare da tanti monopoli locali ad un unico monopolio nazionale. E di nuovo il tema è se noi non abbiamo un confronto competitivo, non sappiamo qual è la situazione migliore. Pensiamo a qualsiasi altro servizio o bene che viene acquistato dall'amministrazione pubblica a Milano, dal Comune di Milano. Potremmo pensare che i costi e la qualità sarebbero inferiori se avesse un'azienda interna? Direi proprio di no. No. Quindi il tema è quello della proprietà, lo dicevate prima, l'unica strada, quella che ha funzionato a Londra, che ha funzionato in Svezia, è separare la committenza da chi produce il servizio. Sì. Se poi Ferrovie vuole partecipare alla gara con altri, il problema è che anche Ferrovie non è così responsabile, non è disciplinato dal mercato. E quindi direi che per Milano potrebbe essere una scelta valida. Il rischio è che poi questa inefficienza dal contribuente locale venga trasferita a quello nazionale. Io vedo una coerenza tra questa logica per la quale nessuno spacchettamento delle gare e anzi integrazione verticale tra l'ex monopolista nazionale e la municipalizzata locale, perché questo è Milano le due somme, con la coerenza con la sentenza del giudice romano contro Uber Black, caro Carlo Alberto. Ma non dire queste cose, dai. Apposto che dobbiamo difendere il diritto di Uber di continuare a portare innovazione. È uno scandalo che anche Uber Black venga bloccata dopo Uber Pop, ed è uno scandalo soprattutto, scusate, non è colpa dei tribunali, poveracci che fanno fatica a capire queste cose, ma sicuramente i politici la capiscono benissimo e fanno i pesci in barile, preferiscono in barile. Che siano i, ma è possibile che le promesse di un intervento legislativo che liberalizzi uno straccio, ma di, quando mai, ma tu ci credi ancora, perché no, sei amico dei politici? No, non ci credo, ma comunque urlo come dici tu, basta due volte per evitarti, come dire, di... Però voglio tornare a Francesco, perché il tema invece qui devo sfidarlo, no? Allora io senti, Francesco, ti devo dire, non sono d'accordissimo, posto che ovviamente mi piacerebbe avere Stoccolma o Londra con le gare, 70% di riduzione dei costi di trasporto, però devo dirti che ci sono delle economie importantissime su modelli organizzativi, manutenzione, gestione del CRM, se lo fa, se arriva FS, se arriva un grande operatore di logistica integrata, cioè poi purtroppo diciamo accidentalmente posso dire FS. Posso, è evidente che se devo preferire il casino dei piccoli monopoli locali al perfetto mercato londinese, preferisco il secondo, ok? Ma dovendo gestire una transizione, chiedo a te, Francesco, non è il caso di accettare, magari violando anche il buon senso e i principi di regole di metodo, perché secondo me l'assenza di gara è una violazione grave, Francesco, non ti far mettere sotto. Ma non ha senso invece provare ad andare nella direzione di un'integrazione verticale ma intelligente, dove i risparmi li otteniamo non ricorrendo al mercato, che sarebbe meglio, ma ricorrendo alla diciamo alla razionalizzazione, alla rigenerazione dei processi? Attenzione che questa domanda ti è rivolta, caro Francesco, con lo stesso tono con cui viene mandato in onda lo spot: il treno Freccia Rossa sta correndo a 300 km/h più o meno, sentivo questa cosa, ma anche no, quello Italo, Francesco, però. prego no, vai Francesco, dovete ospitare meno mattoncini e più i BL. La mia risposta è no. Tutti gli studi di cui disponiamo ci dicono che le economie di scala nel settore del trasporto pubblico sono molto modeste, si esauriscono per quantità di servizi a frazione di quello. Quindi non vedo più rischi che non possibilità. Evidentemente qualche possibilità di risparmio c'è, ma ahimè, Francesco, hai visto più rischi, però l'ascoltatore, devo difenderlo e scusarmi, non ha capito perché la qualità del nostro collegamento è pessima, tanto per cambiare è qualità del delle infrastrutture, com'è. Torniamo dopo il giornale radio. Domenica, ore 14:30, Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate. Sarebbe un peccato. Parola di Bond. James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc. Bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, Padiglione 3. TrentoDoc.com. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Eccoci qui, tornati in studio, i compari dei Conti della Belva, oltre a Oscar che vi saluta e vi ringrazia, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. E prima di prendere in carico il tema per qualche considerazione sulla rottamazione delle cartelle a fronte delle enormi cifre, ricordate ancora una volta, vedremo se ha legittimità a farlo, l'apparato di discussione pubblico, prima di ricordare quello che penso di un fisco che è ancora una volta inadempiente rispetto alla promessa legislativa che aveva fatto di allineare esattamente il tasso di interesse che lo Stato pretende da noi contribuenti. Se sei in ritardo nel pagamento si paga un tasso di interesse più gli interessi di mora che crescono come sanzione nel tempo, e con il tasso di interesse che lo Stato paga invece quando è lui nel ritardo nei rimborsi. Elementare espressione della simmetria del rapporto tra cittadino e contribuente è quella che i due tassi di interesse dovrebbero essere uguali, quando io devo allo Stato perché sono in ritardo e quando lo Stato deve a me. Invece continua a essere il doppio e continua a essere non rispettata la promessa fatta in Parlamento di allinearli. Quindi questa è un'altra prova, cari ascoltatori, che, come dice un matto, finché lo tengono ai microfoni, ma continuerà a dirlo agli angoli delle strade, chi non lo chiederà l'elemosina, lo Stato è un ladro! Ecco, perché quando chiede a me il doppio dell'interesse di quello che mi dà, è tecnicamente un ladro. Che la legge lo metta al riparo da dirglielo in faccia, no, io glielo dico e lui ha la legge come scudo ulteriore nelle proprie mani, perché è asimmetrico, e la sua asimmetria me lo rende intollerabile, perché è la negazione della legittimità del fondamento di quel contratto con me individuo in nome del mio diritto naturale che preesiste al suo. Continuerò a dirglielo a questi ladri di Stato e a questi parlamentari che votano in legislazione tributare delle cose che non mantengono. Siete dei ladri, siete dei ladri, siete dei ladri, siete dei ladri, siete dei ladri. Ecco, fine di come sarà la mia impostazione. Ma intanto due telefonate e ricominciamo però con la vicenda dell'ATM. Agostino da Milano su questo voleva intervenire. Agostino, come la pensi? Allora, sì, io sono Favarone Agostino, sono anche il segretario di UTP, che è l'Associazione Utenti Trasporti Pubblici. Sì. Proprio mercoledì 5 avevamo la 134esima serata, noi dal 2002 ogni primo mercoledì del mese parliamo dei trasporti. C'era il cartellone, ma è una coincidenza, il trasporto pubblico di Milano. E il sì. Nuovo assessore, diciamo che è migliorato e ascolta, perché prima non ascoltava. Rispetto a Maran, sì. Non l'ho detto. No, lo dico io, però è un no. Fatto notorio, vivo a Milano. Comunque vi ha ascoltato, andiamo al punto. È venuto direttamente proprio dalla conclusione delle trattative. Si è capito, poi dico altri punti, che Milano starà di fatto in house per 2 anni di rifo di rate, eccetera. Però bisogna dire una cosa, come si diceva prima, i trasporti passeggeri. Ma lei ha viva voce? Perché se ha viva voce non si sente niente. Tolto il viva voce che mi serviva. Molto meglio, molto meglio, vado avanti. Allora, è in house, perdono. Allora, sulla tecnica dei trasporti bisogna aumentare, bisogna gestire industrialmente i processi. Aumentare la velocità commerciale, aumentare le corsie riservate, diritto di precedenza come era negli anni 70 ad ogni incrocio, cioè praticamente i tranvieri guiderebbero tranquilli, la gente subisce meno discontinuità e si guadagnano soldi. Ok, io sono a favore dell'impostazione industriale, però lei stesso, io non ho capito, se deve dire sì, si resta in house, e lei è a favore o è contro? Ah no, aspetti, qui c'è il problema che in Italia, come diceva prima sulle cartelle. Ma lei fa il politico, perché alla domanda quelli che non mi rispondono ma dicono aspetti, di solito sono politici, non fa il politico. Io ho fatto 40 anni di trasporti merci e passeggeri, sono anche conosciuto, cioè mi sono sempre dedicato tutto okay. Col Corriere della Sera, rispondendo a inserzioni, sono un cittadino che fa politica, ma non partitica, magari dichiaro chi vuole. Dal basso, va benissimo, no, no, va perfetto. Benissimo, dal basso. Quindi io che ho gestito anche aziende in mobility, cioè ho visto da vicino come si deve fare come tecnica. Poi i clienti mi risponda alla domanda, sì, ho capito. Ma qua siamo tutti d'accordo qua per l'ottimizzazione della gestione, la tecnica industriale, l'offerta integrata delle condizioni di ticket e di abbonamento, visto che nella grande Milano ce ne sono 6 diverse, con 6 diverse poli e aziende che le offrono. Ma detto questo, secondo lei è un bene o no che si resta in house e non si fanno le gare? D'accordo. L'asservimento dei semafori non esiste, non vuole essere fatto, sono soldi, è chiaro. Poi, non voglio svicolare la sua domanda, io sono d'accordo, noi siamo d'accordo che esista un'autorità dei trasporti a cui si pagano i biglietti. Londra, come diceva il collega prima, sì. Tu non ti accorgi che compri il biglietto e usi tutti i fornitori, ma da noi tu continui a comprare il biglietto per la singola compagnia, lei che ha fatto spesso il Milano-Torino. Sì, non so, ma io ho visto gli orari dei treni a alta velocità. Se tu lo perdi, c'è il buco dalle 11 alle 12.45. Se prendi il biglietto Italo e lo perdi anni fa, dovevi aspettare le 2. Allora, ripeto, cioè, ci sono due tipi di osservazioni, però andiamo dunque. Qui lo sciopero, quello che ha ottenuto in 2 ore, caro Mario, è esattamente il fatto che si resta in house. E questo è un punto che tutti fate finta di non... Sì, però ottimizzazione. Restare in house è la maniera per non farlo, l'ottimizzazione. Cioè è la maniera per credere che l'organizzazione, il perimetro e le forme con cui si badiscono le gare servono per fare welfare. Sì, esatto, perché diciamo lo spacchettamento, noi vediamo, cioè area C che è l'unica che guadagna, perché è la gallina dalle uova d'oro, però Bike Me, per quanto servizio, per i milanesi è il centro dove esatto, si paga per entrare, dove si paga per l'accesso, diciamo. Poi Bike Me, il servizio delle biciclette, è in perdita. Guida Me, che non si sa più, sono desaparecide le auto del servizio disintermediate. Ma spariscono anche Uber, visto che andiamo avanti così, esatto. Capisci? Poi c'è la gestione della sosta, è in perdita pure quella. Se ATM ritiene di mettere parcheggiare in queste società gli inidonei al servizio o altri esuberi amministrativi, cioè fa dei sussidi incrociati, alla fine chi paga è l'utenza. C'è dubbio. Cioè, in questo paese si fanno delle forme di welfare. L'affidamento in-house è una forma di welfare non universalistica, ma relativa al potere di ricatto che hanno queste società nei confronti della politica, ben lieta di farsi ricattare. Allora, fatta questa ulteriore aggiunta sull'ATM, io la penso come Mardo, la prima all'ultima parola, per questo servono le gare, caro Carlo Alberto, che invece eri d'accordo con l'ascoltatore sull'ottimizzazione, avete anche ragione, si può fare quello ma senza pregiudicare questo, questa era, quindi il Giannino Mario contro l'ascoltatore, sono piani diversi, esattamente. Allora, torniamo alle tasse, io prima ho un po' urlato, ma io credo che lo Stato che mantiene interessi a proprio favore, il doppio di quelli che invece paga, con me se va in ritardo, sia appunto uno stato ladro, lo dico urlando apposta, così si incazzano un po' e aumentano le lettere di quelli che dicono licenziate Giannino. E vabbè, magari ci riuscite, io a quel punto non per questo non continuerò a ripeterlo. Ma perché? Perché questa settimana due paradossi. Da una parte abbiamo una prima stima di come sta andando bene in fila la fila degli italiani per la rottamazione delle cartelle, e insomma una bella fila cospicua, perché qui si parla di richieste per arrivare già a superare ben gli 8 miliardi e così via. Dall'altra, in settimana, l'amministrazione tributaria dello Stato ripete il suo rito annuale nel puntare dito contro gli italiani, dicendo: cari italiani, voi ci dovete allo Stato 817 miliardi che sono stati il totale affidato a noi come amministrazione tributaria per cavarvelo dalle tasche, e invece non lo pagate, 817 miliardi in 15 anni, vergogna, più di metà del PIL, questo la dice lunga sul vostro DNA di incalliti, incivili, incapaci di osservare le regole fondamentali del consorzio civile. E poi naturalmente vanno al dunque e dicono: beh, insomma, di questi 817 il 6% sono quelli lavorabili e crediti esigibili. Domanda: ma perché lo Stato non si deve comportare come una qualunque altra società che è tenuta all'abbattimento dei crediti inesigibili? Tutto il problema degli NPL e delle banche nasce da questo, come diceva Carlo Alberto all'inizio. Perché non vale per il bilancio dello Stato? Perché l'anno scorso ben due grandi fori internazionali, il Fondo Monetario e l'Ocse, hanno dedicato due report specialisticamente rivolti all'amministrazione tributaria dello Stato, dicendo: la volete piantare con questa storia di mettere su sta cifra che sono, è la somma di morti, aziende finite, nulla tenenti, eccetera, eccetera, e che serve solo a fare i titoli dei giornali, e i titoli dei giornali ogni anno lo rifanno, perché mica spiegano alla gente di che cosa sta parlando l'Agenzia delle Entrate. Ecco, allora, questa domanda da una parte, dall'altra la coda per andare a rottamare. Allora, per capirlo meglio, abbiamo chiamato il professor Dario Stevanato, che come sempre un punto di riferimento, lo sapete, in materia tributaria per noi dei conti della Belva e che sia a Trieste. Buongiorno, buon sabato, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. E Antonio Gigliotto, commercialista, che più volte chiamiamo perché diciamo, al di là della rappresentanza, si dà molto da fare con convegni, con le imprese, con i colleghi, con i piccoli imprenditori, ma insomma ha il pregio, almeno questo alle nostre orecchie, anche di andare subito al punto, di essere tagliente, non troppo istituzionale come chi invece è obbligato a fare quando fa rappresentante istituzionale. Grazie di essere con noi, Gigliotto. Grazie a voi, buongiorno. Stevanato, allora, su il doppio tasso a proprio vantaggio dello Stato e su questo apparente dato che non torna tra quello che dice l'Agenzia delle Entrate e la fila per rottamare, che dire? Perché l'Agenzia delle Entrate si è molto lamentata dicendo: ma c'è la fila solo perché li trattate troppo bene, gli avete concesso troppi vantaggi per rottamare i contribuenti. Lei che dice? Il tema della rottamazione ha diversi effetti, secondo me, cioè non è sotto un determinato profilo sorprendente che abbia avuto successo perché lo sconto rispetto ai carichi a ruolo è significativo. Non di rado l'ammontare di sanzioni e interessi è la parte preponderante delle cartelle o dei ruoli. Però quindi questo la dice lunga sul fatto che quegli gravami siano eccessivi e sia inefficiente la macchina, o la dice lunga sul fatto che il contribuente è avido? Ci sono tanti, tanti punti di vista. Se guardiamo al tema delle inefficienze, diciamo gli aspetti di sistema, che secondo me quelli su cui mi concentrerei, perché fare ragionamenti su una maggiore o minore etica o morale dei contribuenti italiani non ci porta da nessuna parte. Io invece credo che ci si debba concentrare su quali sono i meccanismi procedurali e amministrativi che lo Stato deve porre in essere per riscuotere efficacemente i tributi. E se parliamo di questo, allora un dato di fondo che emerge, che sta nascosto rispetto al tema della rottamazione, è l'incapacità, ad esempio, di applicare una riforma delle sanzioni che ci fu un bel po' di anni fa, che prevedeva che gli uffici avrebbero dovuto distinguere da caso a caso, verificare il comportamento del contribuente, trattare in modo diverso chi aveva agito con dolo o colpa rispetto a chi era incorso in errori incolpevoli, distinguere questioni tipo interpretativo rispetto a frodi o occultamenti. Tutto questo però semplicemente non accade. L'amministrazione continua a comportarsi come prima della riforma del 97, cioè applica un modello risarcitorio per cui ogni volta che accetta un tributo applica anche una sanzione. Ora, siccome le sanzioni sono particolarmente pesanti, vanno circa da una a due volte l'imposta, noi abbiamo un sistema in cui ci sono un sacco di contribuenti, che anzi praticamente tutti, che hanno un carico sanzionatorio a volte immeritato. Allora, aspetti un secondo. Altre volte invece no. Aspetti, sull'altra volta un paio no, continuiamo tra un minuto perché c'è l'interruzione del traffico. Ricordatevi quello che abbiamo detto Stefanato, ripartiamo di qua. Che OneExpress.it Pallet Network italiano che viaggia in Europa vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qua tornati, abbiamo interrotto il ragionamento del professor Dallo Stefanato, che vi aveva ricordato che moltissimi dei contribuenti hanno in realtà un carico del dovuto in cui sanzioni, interessi di mora finiscono per essere molto molto molto molto più rilevanti della pura ottemperanza del debito fiscale allo Stato. Perché? Perché malgrado gli impegni assunti in maniera formale di fronte alla legge e al Parlamento, il meccanismo di riscossione resta quello puramente risarcitorio e senza capacità o volontà di distinzione. Riprendiamo di qua, professor. Ecco, partendo da questo dato, l'impressione che ho io rispetto al provvedimento della rottamazione è che la rottamazione, come sta accadendo in molti altri settori, anche nel diritto sostanziale, introduce una distorsione di segno opposto rispetto a quello che ho ricordato prima. Poiché il sistema non riesce a distinguere tra, ad esempio, chi fa una frode carosello rispetto a chi semplicemente sbaglia nell'imputare un costo o ricavo a un anno piuttosto che a un altro, quindi due casi completamente diversi, un'evasione da frode nel primo caso, certo. Secondo un mero errore che non porta alcun danno erariale, il sistema non riesce sostanzialmente a distinguere. Ecco che il provvedimento sulla rottamazione di nuovo non distingue, azzera tutto, cioè quindi toglie le sanzioni sia a chi meritava pienamente di averle, sia a chi invece, diciamo, non doveva averle fin dall'inizio. E questo è un dato che, secondo me, negli effetti si aggiunge all'elemento, diciamo, del tutto erratico, per cui questa è una forma di condono che interviene su un elemento del tutto accidentale, cioè distingue e quindi crea situazioni di non equità rispetto a chi, e tra l'altro una non equità che danneggia chi più era stato ottemperante agli obblighi, per cui tratta meglio chi non aveva pagato rispetto a chi ad esempio aveva pagato. Chi ha pagato non è che ottiene le sanzioni a rimborso, oppure se queste magari non erano dovute. E dunque è un effetto, al di là del breve periodo e dell'effetto del gettito, cui possiamo anche convenire sul fatto che è stato o sta per essere un successo. Ci sono degli effetti che risolve nel breve il problemino di Padoan sotto schiaffo dal PD, perché gli dice non devi toccare niente e questo gli dà un po' di fiato. Ecco, questo dà un po' di ossigeno sotto quel versante, però ecco, dovremmo chiederci gli effetti nascosti e di lungo periodo quali saranno. Cioè, intanto un aumento del tasso di iniquità nel sistema, torno a dire, tratto peggio chi era stato più ottemperante rispetto agli altri. Non riesco a distinguere in realtà chi non aveva pagato per mera carenza di risorse rispetto a chi non aveva pagato in modo, diciamo, volontario e doloso, e soprattutto mi chiederei qual è l'effetto sui comportamenti futuri. Qua do solo un dato: è in aumento, ogni anno la Corte dei Conti lo attesta, il fenomeno dell'evasione da riscossione, cioè di chi dichiara ma non versa le imposte. Ecco, l'aspettativa di ulteriori provvedimenti clemenziale di questo tipo, secondo me rischia di aumentare ancora il tasso dei contribuenti che preferiranno non versare, perché tanto ci sarà forse domani un altro provvedimento sulla rottamazione. Allora, nel chiedere ad Antonio Gigliotto qual è il punto di vista suo come commercialista combattivo, per così dire, ripeto, doppio tasso diverso a favore o contro lo Stato e questa anomalia apparente tra la cifra monstre del debito non incassato, lamentato e a mia opinione sbagliato tecnicamente, lamentato dall'amministrazione tributaria nei confronti del contribuente rispetto alla fila per fare la rottamazione, aggiungo solo una informazione ai nostri ascoltatori, perché nella manovrina che arrivo pare che il governo voglia mettere anche la tassa sulla Coca-Cola, nel senso che la tassa sulle sostanze blu blu blu blu blu con la scusa della vostra salute. Pare che ci siano 200 milioni, farò puntate fino alla morte contro, io non le bevo le sostanze gassate, detto questo non voglio lo Stato che pur di incassare si metta a scegliere anche quali tipi di cibi con presunti fini etici. Oscar, su questo sai che mi devi trovare molto critico. Vabbè, mettila tu, fai benissimo, però smettiamo anche di parlare di sanità pubblica e di assicurare. Sentiamo il nostro soldato. Perché chi si sottopone volontariamente, ti ho detto che io non la bevo, a quello finisce per sborsare un bel po' e campare meno. Quindi il problema non è che lo deve pagare solo chi si becca qualcosa nella sai vita. Sai cosa costa un diabetico allo sennò Stato? Col tuo, hai idea sennò, di cosa costa? Se no col 4... tuo criterio i farmaci, voglio dire, anticancro eccetera, se li deve pagare chi ha la malattia. Però... Fammi litigare un po'. Allora, sei a favore, oltre che di ferrovie, anche della missione tributaria? No, sentiamo un secondo Gigliotto. Gigliotto, allora, che dice di queste apparenti aporie della settimana su quanto lo Stato pretende, quanto lo Stato ci paga sugli interessi e però la fila anche dei rottamatori? Perché il professor Stevanato ha detto, in realtà la fila per i rottamatori si spiega, ma si spiega con degli effetti di iniquità. Beh, assolutamente. Intanto saluto il professore che stimo e rispetto, ma su alcuni aspetti mi permetto di dissentire e le spiego il perché. Dai dati che sono stati pubblicati qualche giorno fa, però emerge una mappa un po' di quelli che sono i contribuenti che hanno dei debiti che lascia un po' perplessi. Lei pensi soltanto che il 53% sono contribuenti che debbono meno di 1000 euro. Esatto. No? Quindi ciò vuol dire sostanzialmente che è la famiglia che gli è scappata la rata o che non è stata in grado di pagare. Quindi non è Ma non sono quelli delle frodi carosello. Ecco quindi chi deve dei soldi non è perché motualmente quindi vuol farli furba, ma i dati lo confermano. Se lei pensa che un altro 20% è dato da contribuenti che devono da 1.000 e 5.000 euro, quindi questo mi dice un dato di fatto incontestabile, che il 70% circa è dato da piccoli contribuenti che non sono certamente identificabili come evasori. Quindi quando si dice che io abito in questo modo il contribuente a pagare, e qui mi permetto anche leggermente di sentire, le spiego il perché, cioè l'evasore, parliamoci chiaro, l'evasore è quello che praticamente non fattura, non quello che quindi lavora, dichiara e poi non paga, perché comunque se io quindi l'importo lo dichiaro in dichiarazione dei redditi, lo so che molto probabilmente quindi andrò in conto delle conseguenze, e io guardi glielo dico sia come direttore di giornale ma anche come commercialista, tanti contribuenti non è che non pagano perché dice tanto fra due o tre anni qua quindi esce qualcosa, no, perché non sono in condizioni di pagare. Poi vogliamo parlare di sto successo, parliamone anche, è vero, quindi se c'è uno sconto importante il contribuente mutualmente è maggiormente portato, no? Io le garantisco che la fila quindi che abbiamo visto vergognosa, perché solo in Italia si fa la fila per pagare, no? Quindi ti alzi la mattina alle due e ti metti in coda, erano famiglie, erano contribuenti, non erano imprenditori. Gli imprenditori, le dico e le ribadisco, sono contribuenti che hanno dichiarato e che se non ce la facevano ad andare in conto ad una rateazione che gli consentiva di addirittura di arrivare a 10 anni, nonostante lo sconto importante, in 15 mesi non potranno mai riuscire a pagare quindi quello che è dovuto, nonostante ci sia un abbattimento. Quindi sono numeri importanti che però bisogna leggerli con una certa attenzione, perché altrimenti è facile dire successo. Sì, è grande, è un successo, perché comunque però guardiamo chi sta pagando, chi sta facendo le file. Poveri contribuenti, povere famiglie, che certamente le assicuro che non hanno pagato la rata pensando che fra 2, 3, 4 anni forse c'è un condono o qualcosa. Quindi secondo me Quindi va data un'interpretazione anche un po' più realista e di quello che vedo tutti i giorni. Ecco. Poi il fatto che li lasciano è chiaro, perché ogni anno facendo, cioè come fanno queste manovre? Noi prevediamo di incassare, è chiaro, su 800 miliardi i dati ci dicono che se va bene ne incassano 50 miliardi, cioè grande successo allora. Allora su questo bisognerebbe quindi valutare e pensare, non che mi cambiano una struttura esistente che nel 99% rimane quella, stessi dipendenti, stessi funzionari, stessi immobili, quindi cambia il nome e sostanzialmente quindi vi sarà certamente un accertamento diverso nei confronti del contribuente, perché molto probabilmente c'è più, quindi rapidità sarà la fase quindi di accertamento e la fase di discussione. Ma va bene, grazie anche a Gigliotto, quindi due punti di vista un pochino diversi, resta il fatto che secondo me la piantassero di levare crediti inesigibili, cioè la piantassero di ripetere nei come crediti esigibili quelli che non sono esigibili, e quindi quegli 800 miliardi dovrebbero abbattersi dei 7/8, questa è la verità, e piantarla con questo argomento propagandistico, e magari anche unificare il tasso di interesse che lo Stato chiede a me e quello che io ottengo dallo Stato a seconda dei rispettivi ritardi nell'ottemperanza dei debiti e dei, quindi degli impegni altrimenti reciproci, altrimenti il contratto è asimmetrico, se il contratto è asimmetrico non si capisce perché la parte debole debba sentirsi dalla parte dell'illecito, quando invece non è così. Torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Questa lo sapete, la sigla felliniana che ci porta a un appuntamento fisso tutte le volte che può e che fa naturalmente imbizzarrire molti dei nostri ascoltatori. Non sapete quante lettere sull'ultimo arrivano. Ah, voi avete ospitato il punto di vista ufficiale? No, è un grande collega giornalista europeo. Okay, questa è accidentalmente tedesco. Accidentalmente tedesco, non accidentalmente uno che ha studiato numeri prima di fare giornalista. Questo scrivo ulteriormente: il cerchio diventa sempre più ristretto con i criteri italiani. Cioè, Udo Gumpel, grazie di essere con noi, Udo, anche questo sabato. Sì, buongiorno a voi in studio e anche ai nostri ascoltatori. Allora, noi volevamo iniziare facendoti una domandina, perché prima abbiamo accennato, occupandoci di trasporto pubblico locale, alla nuova sentenza romana sulla vicenda di Uber Black. Ovviamente la sentenza contraria, la politica delega ai magistrati, che così non si sporca le mani sugli interessi in gioco ed è incapace di una visione aperta al nuovo e capace anche di dare risposte a chi ha investito nel mercato, come hanno fatto i tassisti per le licenze. Però la politica promette, fa passare tempo e poi intervengono i magistrati. Ma in Germania, in realtà, come sta messa la vicenda di Uber? Lì ci sono Uber Black, Uber Pop, c'è la magistratura delegata, sono i politici che sono intervenuti, non sono intervenuti. Come stanno le cose in Germania? Allora, in Germania ci sta così che Uber Pop non è permesso perché è semplicemente trasporto di persone da privati in modo commerciale, è soltanto permesso per quelli che sono i trasporti, diciamo, tipo BlaBlaCar, le persone che offrono un passaggio da una città all'altra, e ci sono ormai anche delle application. Questo è un vecchio sistema che esiste direi da 40 anni. Mentre Uber Black è di solito permesso, alcuni comuni hanno fatto delle limitazioni, ma in fondo è permesso per una ragione, che si tratta di autisti che hanno la licenza del trasporto di persone, e dato che è libera, questa è la cosa importante, la questione del prezzo: se io faccio un prezzo più basso del taxi è chiaro che io magari guadagno dei clienti e li posso anche offrire tramite un'application, che sia Uber o che sia un'altra application, ed è affar mio, non è che lo Stato mi deve dire quanto io devo chiedere come prezzo minimo, perché questo proprio e sarebbe in realtà anche contro le direttive della libertà di offrire dei servizi. Dunque l'Italia in questo, dal mio punto di vista, ha messo male anche nelle, rispetto alle regole europee che sono a favore della libera concorrenza, della libertà di offrire dei servizi a prezzi più bassi. Perché quello che è particolare della sentenza del Tribunale Civile di Roma. È proprio che loro hanno trovato nel prezzo più basso applicato da Uber rispetto ad un tassista la concorrenza sleale. E questo proprio la cosa non era, non hanno detto i tassisti NCC non hanno la licenza o le macchine sono brutte, perché uno deve farsi portare in una macchina sgangherata piuttosto che in una Mercedes ultimo grido, e questa è concorrenza sleale, che le vostre macchine sono più belle. No, hanno detto voi praticate dei prezzi più bassi di quelli stabiliti dal comune. Ecco, qui siamo nella gestione del monopolio, no? Una categoria che ha non preso, se no, poi un dettaglio da ricordare al nostro, le taxi li concede a titolo gratuito due bolli, e che ne so, di 16,80 euro, e allora lo paghi. Poi li rivendono a 150.000 euro. E su questo punto forse dovremmo anche accendere lì una luce. Quando no, sul mercato secondario o privato non c'è dubbio, ma la domanda che ti faccio io, dimmi, è: a fronte di questa diversa, ci hai ricordato, c'è qualche comune, ma nella regola invece è autorizzato su licenza l'Uber Black. Per arrivare a queste soluzioni in Germania ci sono stati contrasti paragonabili, scioperi dei tassisti eccetera eccetera, o è la politica che ha saputo indirizzare all'apertura con equilibrio? Ci sono stati scontri per esempio a Berlino tra tassisti e che effettivamente anche a Berlino speravano di poter impedire del tutto, e lì la situazione attualmente non è, è precisamente regolata. Normalmente nelle città tedesche esiste Uber Black, in alcuni comuni no, perché anche lì c'è la categoria dei tassisti, però le sentenze danno ragione normalmente a Uber, perciò i tribunali che tentano di applicare le regole del libero mercato, e allora finché ci sono le condizioni basi, ovvero un autista autorizzato a fare il trasporto pubblico, lui ha la libertà di gestire anche il prezzo, perché questa è la cosa scandalosa della sentenza di Roma, che loro vedono nel prezzo più basso la concorrenza sleale, e questo veramente non regge. E del resto, carissimi compari, come in settimana ci ha insegnato un economista che è diventato europeo, anche se di nascita è siriano, è stato Corriere della Sera a sollevare il caso, e la somma di tutti i sovrapprezzi non concorrenziali, certo, che paghiamo in Italia, lui ha fatto l'esempio, il motorino, l'assicurazione sul motorino, quanto viene inglobato nel prezzo dello stesso motorino, il fatto che per pagare la tassa, per reiscriverlo e per assicurarlo, eccetera, eccetera. Ha fatto l'esempio di tutto questo per dire, guardate, l'Italia è un paese dove non conviene stare. Un paese di intermediari parassiti. Esatto. Dove il primo parassita spesso è lo Stato, con questi bolli, carta bollata e quant'altro. E siccome sull'offerta dei servizi pubblici gravano sovrapprezzi, quindi sovracosti per il cittadino, anche l'offerta di servizi privati negli stessi settori, classico il prezzo di intermediazione dovuto dal cittadino italiano all'agenzia di intermediazione perché non fa la pratica diretta, e abbiamo due centri pubblici invece che uno per il registro automobilistico, tanto per cambiarci, visto che c'è la struttura del Ministero dei Trasporti a strutturarci. E infatti anche su questo Udo è intervenuto sui social, si è beccato qualche rispostaccia come sempre, ma il problema è che dalle sentenze che in Germania sono di solito a favore Uber e le sentenze che qui sono contrarie, proprio perché, come hai detto tu, indicano il prezzo più basso come lo scandalo, l'effetto a catena è quello che diceva quel giovane economista, dicendo: ragazzi, io tra Londra e l'Italia con la stessa cifra in Italia vengo massacrato. È vero o no, Udo? È assolutamente vero, che poi io nei social avevo dato come paragone il cambio di proprietà di una vettura, no? Il prezzo. Io avevo messo quello più alto possibile con tutte le varie regole delle regioni in Germania, ma io avevo scritto 37 euro per il passaggio di proprietà di un'autovettura di piccola cilindrata, ma il prezzo base in Germania è metà, 18,60 euro rispetto ai 500 che io ho pagato appena per il cambio di una vettura di 12 anni di un 1100 di una Lancia Y. No, è chiaro che quei 500 euro che ho pagato in più li avrei magari spesi comprando un oggetto nuovo, esatto, e che avrebbe garantito creando lavoro in Italia. Lavoro in Italia. Invece l'assicurazione mi costa il doppio rispetto alla Germania, ormai il doppio. E ricordate, io mi ricordo benissimo che 25 anni fa le assicurazioni in Italia costavano di meno. In Germania sono scesi di prezzo, di costo per l'autovettura, per la stessa autovettura. Io non faccio, poi non si può dire che io faccia tanti incidenti da più di 20 anni, no, ho fatto, cioè il bonus migliore che esiste nelle assicurazioni. E però non ti ricordo la solita mania tedesca di rispettare le regole, vedi Udo, che poi non possiamo non prenderti in giro, ma come fai? No, questo però non va bene, siete così prevedibili, ma non esiste, avete perfettamente ragione, e deve essere, è più forte di me, capito? È più forte di me, io ci provo invece a trasgredire, però non metto sotto i pedoni che passano col rosso e freno anche quelli che mi tagliano la strada, perché c'è evidentemente è un automato all'interno mio che non riesco a superare. Però come dicono alcuni portatori di una teoria economica piuttosto singolare, la mia spesa è il tuo reddito, pertanto se noi veniamo massacrati di gabelle, di mediatori e parassiti, è tutto PIL. Questi mediatori e parassiti rimettono in circolo comprando e vissero tutti felici e contenti. Voi capite, questa gente ha il cervello in pappa. Esattamente. E allora, grazie ancora una volta Udo Wumpel per esempi concreti e semplici che però ci fanno riflettere su quanto abbiamo da lavorare su questa struttura inefficiente di prezzi e sovraccosti nel nostro paese. Noi torniamo tra poco. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Allora, ma è rimasto ancora collegato con noi l'ascoltatore Andrea da Milano? Andrea? No, non è Andrea. Ah, c'è ancora, buongiorno. No, mi scusi perché mi era partito via l'occhio, ma devo premiare assolutamente la fedeltà con cui è rimasto lì. Allora, se cosa vuole intervenire? Sul fisco, mi dicono? Allora, sì, per varie delle cose, anche perché sono in molti casi d'accordo col professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, forse perché in effetti lui mi ha tenuto alla laurea, quindi dal punto di vista onesto a dichiarare di vista, non ne ricordare i miei trascorsi, come uno si invecchia vede che i figli imbiancano infatti imbiancano anche per me, quindi figuriamoci. Ma la problematica è, io lavoro all'estero e nel lavorare all'estero spesso e volentieri sono in effetti un creditore netto, sì, dal punto di vista delle imposte. Sì. Quindi lei è uno di quelli che misura sul campo il fatto che lo Stato gli riconosce interessi quando è lo Stato in torto la metà di quelle che chi ci chiede, quando invece siamo in ritardo noi. Per dire tutta la verità, non li riconosce nemmeno, anche perché a fronte del fatto che si pagano le tasse in anticipo, perché io da... Esatto. Privato cittadino e soprattutto da dipendente, altro non faccio che pagare comunque le tasse al 90% in anticipo. Non c'è dubbio. Peccato che nel momento in cui io vada a credito, questo mi venga riconosciuto nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate o chi per essa ha fatto la valutazione ed eventualmente accettato, perché nel caso in cui noi si ha debito, il debito è certo. Il credito invece è un credito che deve essere valutato. Certo. E questa valutazione del credito avviene approssimativamente entro tre anni e mezzo. Ma lo Stato si riserva di verificare se nel frattempo lei non muore, così non ne paga nulla. Esatto. Il bello di tutto è che questi 4 anni e mezzo, su somme anche abbastanza ingenti, certo, non soltanto non sono, bravo, di per sé pagati gli interessi, ma oltretutto io non ho la disponibilità e non posso nemmeno utilizzarli per altri, esatto, per altri motivi. Come se fosse un circolare garantito a fine dal pagamento dello Stato. Esattamente, non può perché non è riconosciuto. Ma questo è uno dei tanti aspetti. Ora ringrazio di questo intervento. Vedi, grazie Andrea, vedi che qualche cosa serve il lavoro. Grazie Andrea, grazie Andrea del fatto di aver resistito alla natura filostatale su Ferrovie dello Stato, al suo professor Carlo Alberto, sto scherzando, ma grazie per aver aggiunto. Cari ascoltatori, quando intervenite su queste cose mi fate apparire meno matto, perché alcuni sostengono che io andrei carcerato per il fatto che dico che sono lo Stato ladro, perché ormai in Italia girano queste cose, i patrioti che dicono che ci arresteranno tutti il giorno del no euro. È no? Più rapinatore che ladro, perché capisci, te lo dice in faccia, ti punta la pistola sul naso. Quelli ai quali vogliono ripristinare il diritto di stampare a iosa raccontandovi che tanto non si crea nessun problema, ecco, lavorano per questa roba qua, sognano di fare il super ministro di questo Stato qua. E naturalmente bisognerà sperare che non avvenga. Poi se avverrà ci faremo delle grandi risate, ma saremo impoveriti mentre lo si arricchiranno personalmente. Professor Renato Cifarelli, ma allora, professore, no, professore, mai, professore, per me sei un professore, che meno per me fai con quello che esporti e con la tua azienda. Allora, questa settimana dacci la tua pillola di incazzatura. Dacci la tua pillola di incazzatura. Ah no, io mi ricollego sulla cosa di prima, perché sai che stanno uscendo un po' tutte le cose della manovrina, no? Mm-hmm. E la cosa che tutte le volte mi prende un po' non benissimo, mm-hmm, è questa storia dello split payment. Lo sai che l'hanno esteso, l'Unione Europea ha detto andate. Sì, sì, andate, però gli ho detto anche sotto, però ricordatevi che quando uno va a credito, e ci ricolleghiamo a quello che diceva Andrea, dovete dargli i soldi in 3 mesi. Ma non capiterà, ovviamente. Ma perché... Purtroppo è una cosa molto tecnica che la gente non capisce e leggono che è una lotta all'evasione. Capisci, bravo. Non è che sia una lotta all'evasione questa cosa, è semplicemente che lo Stato non ti paga l'IVA se, esatto, tu hai l'azienda. Ti drena liquidità, non solo, ma soprattutto ti manda credito. Esatto. Perché tu hai pagato l'IVA quando hai acquistato le merci che vai a vendere allo Stato, e non incassi l'IVA. E siccome l'IVA si chiama imposta sul valore aggiunto, cioè la differenziale che tu paghi di IVA è tra l'IVA che hai pagato quando hai comprato e l'IVA che incassi quando hai venduto, se tu quando vendi non incassi l'IVA, è evidente che vai a credito. Cioè è proprio... Non sì, in proporzione a quanto valore aggiunto fai, peraltro, quindi penalizza quanto più sei bravo ad aggiungere valore. Ma infatti il drenaggio di liquidità consiste nel fatto che a quel punto non ti paga, il drenaggio è quello, non ti paga il tuo credito. Tanto è vero che noi... È il fondamento della convenienza per il gettito, questa roba qua. Sì, ma questa cosa qua è il solito pacchettino regalo che fa lo Stato italiano, tipo quando, avendo il bilancio... che è per cassa e non per competenza, tipo quando al 10 di dicembre comincia a non pagare più. E allora dicono, quest'anno abbiamo fatto meno deficit. Certo, non hai pagato nessuno, hai portato, esatto, i debiti all'anno dopo, in questo caso stai incassando l'IVA che dovresti incassare fra un mese, 2 mesi, 3 mesi, a seconda di quella che è la denuncia dell'IVA delle aziende, immediatamente, e altro che... Per te è un'operazione perfetta. Le aziende magari non sono così contente di questa cosa. Renato, ma le procedure di rimborso IVA che il governo millanta essere state velocizzate, sono state velocizzate o è una balla? No, allora, il discorso dell'IVA per i piccoli importi adesso basta che ci sia una certificazione, mi sembra, del collegio sindacale, uh-huh, se ce l'hai, o comunque un'autocertificazione. Per gli importi abbastanza piccoli lo puoi scalare direttamente. Per gli importi grandi ci sono quelle belle procedure per cui devi fare la fideiussione. Esatto, quindi i tempi restano lunghi. Va bene. Andare in ginocchio, eccetera, eccetera. Abbracci Renato, non ci deludere, esporta sempre di più, che sennò il professor Carlo Alberto qua ci mette tutte le mani dei monopolisti di Stato, perché questa è la novità di questa puntata. No. Allora, speriamo di poter parlare di nuove tasse della manovrina sabato prossimo. Intanto continuate con la 24, appuntamento con Alessandro Mina lunedì alle 8:20. Italia, le tempi di Scipio finita e la festa, strigiamo.